BBC Web presenta Bla Bla Bike, da un'idea di Pier Augusto Stagi e Paolo Broggi. Amiche e amici di tutto BC Web, Nicolò Vallone vi dà il benvenuto alla puntata numero 252 di Bla Bla Bike. Anno nuovo, partner nuovo. Adesso ascolterete un piccolo messaggio promozionale molto interessante. Dopodiché ci immergeremo direttamente in una bella chiacchiera dell'Epifania insieme a Domenico Pozzovivo. Conosci bicycle.com? È il sito per acquistare e vendere biciclette usate in modo semplice, sicuro e senza complicazioni in più di 30 paesi. Trova il modello che fa per te tra le oltre 25.000 bici da strada, gravel, mountain e triathlon. In questo periodo, per gli ascoltatori del podcast Bla Bla Bike, è previsto un risparmio del 30% sulla protezione del venditore con il codice Bla Bla 30. Approfittane! '18 Giri d'Italia come Panizza, 16 Lombardia come Rebellin, due dei principali record di longevità, ma anche prime festività di Natale e Capodanno da ufficialmente ex corridore e prime festività di Natale e Capodanno da papà. Ciao Domenico e bentornato in questa tua nuova festa in tanti sensi al nostro podcast. Ciao, grazie per l'invito. Grazie a te per essere con noi in questa giornata di Epifania. Tutte le feste porta via, si dice, no? Ecco, sono state festività veramente molto particolari, accennavamo prima per te, per tanti motivi, e comincio a chiederti, Domenico, come stai tu, come stanno Valentina e Diana, la nuova arrivata, e com'è stato quindi questo periodo, diciamo, di vacanza, ma vacanza immagino meravigliosamente stancante, no? Con questa bella, bellissima novità nelle vostre vite. Sì, stiamo tutti bene. Devo dire che non potevo chiedere un regalo di Natale più bello di quello che è arrivato quest'anno. E, in effetti il 20 dicembre è nata Diana e da lì è stata tutta una scoperta di nuove abitudini a cui abituarsi e anche la scoperta di quello che è la sua crescita giorno per giorno. Le nostre feste natalizie sono state assolutamente uniche, l'abbiamo ovviamente condivisa nell'intimità del nucleo stretto di Natale, perché comunque i miei parenti mi erano molto lontani dalla Svizzera e quindi siamo fatti, diciamo, nucleo familiare noi stessi. E poi è stato molto diverso dagli altri anni, perché di solito in questo periodo mi capitava spesso di fare un ritiro a Tenerife e mi raggiungeva anche mia moglie Valentina, quindi quest'anno abbiamo, diciamo, soggiornato qui nella fredda, in freddo Ticino, e quindi è stata anche una differenza evidente dal punto di vista climatico. Ci sarà il momento anche in cui Diana si potrà rendere conto di quello che ha fatto nella sua carriera il suo papà, già un po' sogni il momento in cui eventualmente dovesse salire per la prima volta su una bicicletta o vedere in televisione o su qualche device, ecco, le imprese del papà? Ma ovviamente saranno dei momenti emozionanti. Al giorno d'oggi c'è la fortuna di poter usciare gli archivi con molta facilità tramite internet e i social, quindi non sarà, penso non ci vorranno tantissimi anni affinché questo succeda. Chiaro. Sono state purtroppo però anche, questo per tutta la comunità del ciclismo, le festività in cui è venuto anche a mancare Gianni Savio. Ecco, tu hai legato la tua carriera soprattutto alla famiglia Reverberi a livello di squadra italiana, però è chiaro che la famiglia del ciclismo italiano è un'unica grande famiglia, no? Quindi vorrei chiederti anche un tuo ricordo del principe. Ma sì, parliamo di pilastri del ciclismo italiano, soprattutto nel momento in cui mi sono trovato al passaggio nel professionismo da 20 anni fa, quindi ho sempre visto la figura di Gianni come uno, diciamo, a cui dire grazie per quello che ha fatto per il ciclismo italiano. Sempre una persona che si distingueva per il suo stile, per il suo modo inconfondibile anche di allestire la squadra, con un carattere sempre molto aggressivo, molto, diciamo, sono state veramente squadre in cui l'impronta sua si vedeva sempre nel voler aggredire la gara con fughe anche a volte al limite della, diciamo, ragionevolezza che spesso invece gli ha dato ragione. Quindi sicuramente il mio pensiero va a lui, è una persona che ha fatto tanto nel nostro ciclismo e ha lasciato un segno. Torneremo dopo, tra l'altro, anche sul discorso del ciclismo italiano, squadra, eccetera. Torniamo però adesso su di te. Domenico, accennavi prima naturalmente all'unicità, alla grande differenza rispetto agli altri anni di questo periodo di Natale e di inizio anno. Per quanto ti riguarda, ecco, ti volevo proprio chiedere anche come questa duplice novità nel tuo momento di vita in generale, il non essere più un corridore ed essere un papà, come tutto questo cambia eventualmente il tuo rapporto con la bicicletta, proprio col mezzo della bici. Diciamo, il rapporto con la bici diventa residuale, nel senso che non è la priorità delle mie giornate, però ovviamente essendo una grandissima passione, non avendo smesso con la nausea per la bici, appena posso mi ci dedico, e tra l'altro anche con uno spirito un po' di sperimentazione, perché comunque mi sono laureato in scienze motorie, sto studiando anche per la magistrale in scienze della nutrizione con indirizzo nutraceutico, quindi se posso mi piace ancora prenderla di più dal punto di vista di pratica, di mettere in pratica cose che studio dal punto di vista teorico. Quindi ultimamente comunque non ho neanche disegnato tanto la possibilità di spingere anche ancora su determinate qualità, perché ho voluto, diciamo, un po' studiare diciamo, quanto possa essere efficace un allenamento pur avendo a disposizione poche ore in una settimana. Quindi ho visto un po' la reazione del mio corpo a questo tipo di approccio. Quindi diciamo che non hai abbandonato un po' la strumentazione di monitoraggio che accompagna i corridori, no, professionisti nella loro vita quotidiana, nel loro allenamento quotidiano, perché comunque ti monitori sempre tanto, mi par di capire, quando vai in bici, proprio per questi tuoi fini più, non dico didattici, però insomma da studioso adesso della materia ciclismo più che da corridore professionista. Sì, se vogliamo sono anche aumentati gli strumenti di monitoraggio, perché magari durante la stagione, per il fatto che non si può usare in gara, il glucometro l'ho usato poco, adesso invece magari lo uso di più e monitoro di più anche l'aspetto della come si muove poi la curva glicemica in base sia a come si alimenta che come l'intensità che si fa nell'allenamento. Ecco, una laurea in scienze motorie appunto quest'autunno, proprio appena prima di appendere la bici al chiodo, che ha fatto seguito a quella in economia aziendale di 15 anni fa. Cioè, mi sembra di capire anche da altre interviste che hai rilasciato in questo recentissimo passato, che tu hai già chiaro quello che vuoi per il tuo futuro all'interno del mondo ciclistico, no? Comunque il mondo della preparazione, del coaching. Sì, è quello un po' la dimensione che mi interessa. Mi interesserebbe occupare un ruolo proprio sì nel coaching e anche nella nutrizione sportiva, quindi vediamo, diciamo, di entrare a piccoli passi anche in questo tipo di ottica. Ecco, coaching, nutrizione sportiva, senza naturalmente spoilerare quelle che sono, insomma, anche magari preziose competenze personali che stai maturando anche con questo lavoro di sperimentazione, di studio che ci hai raccontato. Però se volessi, potessi dirci, non so, un aspetto particolare che pensi che potresti portare proprio di tua caratteristica, molto peculiare a livello di filosofia, di metodo nella preparazione, qualche idea tua specifica, che quello potrebbe essere un marchio di fabbrica del Domenico Pozzadio preparatore. Ma in generale a me, diciamo, quello che negli ultimi anni ha giovato tanto è non essere fossilizzato, comunque non essere troppo ideologizzato su una metodologia di allenamento, ma usare i vantaggi di diverse metodologie anche a livello di strategia alimentare. Quindi essere molto elastici nel dare stimoli sempre diversi al corpo. C'è qualcosa in come si è evoluta la preparazione, sappiamo che si è evoluta tantissimo, anche in pochissimissimi anni veramente, nel ciclismo, che magari ti convince meno e che vorresti anche, insomma, a livello personale, quando avrai la possibilità di provare a cambiare? Ma non so se la mia goccia possa cambiare, diciamo, il livello del mare, però nel senso l'aspetto che magari è un po' più deleterio dell'evoluzione del ciclismo negli ultimi anni è un po' a livello magari di, che ne so, vogliamo chiamarlo fair play, nel senso del rispetto degli altri corridori, rispetto che c'è in gruppo, perché non è voler tornare a sorta di nonnismo o chi per esso, ma diciamo una... diciamo non trasformare la gara poi in una guerra, perché tante volte il non sentire a un certo punto che c'è un limite da non superare provoca spesso ultimamente incidenti importanti in gara, e quello purtroppo è una deriva che secondo me andrebbe un po' arginata. Quindi una sana, chiaramente che non trascenda, come dicevi tu, in un nonnismo, però insomma un sano rispetto di quello che possono essere i senatori del gruppo, ma nel senso di un rispetto di certe regole non scritte, diciamo così, pensi che sia un valore che debba un po' tornare in questo ciclismo attuale, così sempre più forsennato, sempre anche più precoce come età dei grandi talenti nel professionismo? Sì, sì, in generale comunque visto che si va in un ciclismo con corridori magari con meno esperienza, diciamo che magari anche dal loro punto di vista avere una certa prudenza in certe situazioni che non hanno mai affrontato, invece di essere troppo diciamo incauti in generale. E tantissimo a proposito di sicurezza hanno fatto parlare alcune, soprattutto nuove regole che sta introducendo la UCI, di cui insomma anche tu hai un po' sperimentato nell'ultima parte della tua carriera, nell'ultima parte dell'ultima stagione. Parliamo ad esempio della famosa limitazione delle radioline, parliamo dei cartellini gialli, parliamo delle modifiche alle neutralizzazioni dei tempi, dei chilometri all'arrivo nelle tappe con previsto arrivo in volata. Ecco, tutti questi pacchetti di nuove normative, cosa penso? Stiamo chiedendo un po' a tutti o quasi i nostri più recenti intervistati. Ma se posso dire la mia, alcune diciamo sperimentazioni mi trovano d'accordo, come quella di allungare la neutralizzazione, addirittura io sarei anche più largo in questo tipo di approccio, e ovviamente farla un po' ad assetto variabile, perché gli arrivi non sono mai uno uguale all'altro, ma poterla estendere anche in alcuni casi a 10 km, se gli ultimi 10 sono molto complicati dal punto di vista di rete urbana, eccetera. Per quanto riguarda le radioline, sono invece assolutamente contrario alla rimozione parziale o esperimenti di darlo solo a alcuni corridori, a togliere del tutto, perché comunque sono uno strumento che dà più vantaggi che svantaggi dal punto di vista della sicurezza, anche perché tutto quello che viene attribuito dal punto di vista magari della pressione che si può dare a un corridore tramite la radiolina può essere tranquillamente sostituita con delle informazioni che compaiono sul computerino, quindi non è quello secondo me che dà la pressione che poi crea anche il pericolo, e in più mancherebbero poi le informazioni sulla sicurezza in caso di diciamo un incidente che c'è davanti alla corsa o situazioni per cui tu debba essere aggiornato in tempo reale. Sì, i cartellini gialli sono d'accordo, comunque abbiamo la possibilità di avere immagini in tutta praticamente lo svolgimento della gara e comportamenti che trascendono un po' quello che dovrebbe essere la correttezza, secondo me vanno comunque redarguiti e possono essere anche un po' un monito per il discorso che facevamo prima sul rispetto che debba essere tenuto in debita considerazione. Devo dire che sono molto allineate le posizioni, ad esempio, tue a quelle di Matteo Trentino, Jacopo Mosca, insomma, altri grandi esperti in gruppo che abbiamo interpellato sull'argomento di recente, appunto. Accennavamo prima al discorso squadre italiane, facendo un attimino un passo indietro, sia nella tua carriera a livello anche di categorie, a livello under 23, la formazione che ti fece da trampolino verso il professionismo fu la ZALF, che è una squadra che tra l'altro nacque un anno prima che venissi tu al mondo. Come valuti alla luce anche della chiusura dei battenti della ZALF, ma poi in generale sappiamo bene come sia particolare, diciamo così, per usare un eufemismo, il momento del ciclismo italiano, soprattutto in certe categorie. Ecco, come valuti tu la situazione attuale in Italia, problematiche principali secondo te e quindi aspetti principali su cui si dovrebbe andare un po' a puntare maggiormente, a sistemare un pochino, correggere il tiro, ecco. Ma la problematica principale è che magari ci si è accorti oramai quando i buoi erano scappati dalla stalla che il problema c'era, insomma eravamo in mezzo, cioè fino alla testa al problema, nel senso che l'evoluzione un po' internazionale del ciclismo cioè, ha già mostrato negli ultimi anni che la categoria Under 23 nella migliore delle ipotesi si era ridotta diciamo a Under 21, oppure a un anno diciamo, per i corridori più talentuosi, come una piccola categoria di traghettamento verso il professionismo. In Italia purtroppo siamo rimasti un po' ancorati a quello che era il ciclismo di non tantissimi anni fa, magari di 4-5 anni fa, e questo non gioca neanche a favore del fatto di riuscire poi a inseguire le tendenze che ci sono a livello mondiale, perché comunque oramai per una squadra under 23 come la ZALF era sempre più difficile riuscire a reclutare i migliori talenti come era stato fino a pochissimi anni fa, perché l'attrattiva dei devo team, delle grandi squadre era enorme e quindi tutti i migliori prospetti di junior cercavano comunque di approdare in queste squadre. E dall'altra comunque in Italia il movimento junior non è magari ancora pronto ad avere un approccio, diciamo, chiamiamolo scientifico, o comunque a un livello tale che ti possa proiettare, non dico direttamente, ma quasi al professionismo. Quindi bisogna, secondo me, adeguarsi e cercare di dare più forza al movimento junior che oramai quello che forma davvero i ciclisti alla stagione nei pro e considerare l'Under 23 purtroppo come una categoria che possa permettere magari a chi non ha avuto uno sviluppo magari precoce però ha ancora voglia di mettersi in gioco per poter passare professionista di poterlo fare, però sapendo che la via principale non è quella, diciamo, dal punto di vista purtroppo reale, perché funziona così. Non so se poi l'UCI addirittura porrà mano a un cambiamento proprio delle Della categoria in sé categorie. per sé. Sì, Potrebbe essere, penso, una strada che verrà percorsa a breve. si parla di un under 21 al posto di under 23, insomma, questi sono gli ultimi rumors che abbiamo. E, visto che siamo in periodo di elezioni federali, tra l'altro, non ti chiedo né pronostici né posizioni sul vincitore o vincitrice, ma no, voglio chiederti cosa vorresti vedere, che tipo di operato vorresti appunto vedere in azione da parte di chi sarà, di chiunque sia che sarà al comando della Federazione Ciclistica Italiana fra 2 settimane. Ma più che altro non vorrei, diciamo, un atteggiamento di contrapposizione, nel senso che magari un po' guardando i programmi c'era chi sposava di più la causa magari del ciclismo di elite, chi all'opposto diceva che diciamo, il ciclismo italiano necessitava più di lavorare sulla base. Per me comunque anche indirettamente lavorando sul ciclismo d'elite si tira verso l'alto un po' tutto il movimento, perché comunque chi segue il ciclismo lo fa anche perché c'è un movimento d'elite che funziona. Quindi vedremo in base a chi vincerà, quale sarà la strada da percorrere, però sarà importante secondo me. Io purtroppo più di 20 anni fa sono partito dal sud e e sono dovuto spostarmi subito al nord per seguire il mio sogno, però pensavo che in un arco temporale abbastanza lungo, a un certo punto, i sacrifici che ho dovuto fare io non sarebbero stati quelli delle nuove generazioni. Invece purtroppo la situazione è ancora, non so se è anche addirittura peggiorata, quindi per me un obiettivo importante sarebbe cercare di aiutare anche il Sud ad essere ancora più coinvolto nel ciclismo che conta. Certo, che sia veramente una federazione ciclistica italiana proprio al 100%, insomma. Sì, perché abbiamo visto anche esempi di virtuosi in altre nazioni, tante volte quando vedi regioni, che ne so, facendo un nome che viene subito in mente, la Comunità Valenziana, che è cresciuta tantissimo dal punto di vista ciclistico, tra l'altro trascinato dall'alto, perché sono stati riutilizzati le squadre pro a creare quell'indotto lì. Pensi perché non si può fare anche in Italia, perché il clima del sud è assolutamente assimilabile a quello. Vedremo. Purtroppo ci sono tanti aspetti che poi credo anche si compenetrino in quel caso, no? A livello sia di politica ciclistica, di politica invece in Sì, generale, anche, no? deve essere Governativa. assolutamente aiutata la politica generale, la politica ciclistica, per poter fare certe scelte. Assolutamente. Tra l'altro, in questo mi viene in mente che si inserisce anche una figura come quella che si sta imponendo in maniera molto decisa, visto anche che occupa un posto attivo nell'attuale Parlamento, che è quella di Roberto Pella, il presidente della Lega Ciclismo Professionistico. Invece, come vedi quest'altro, diciamo, quest'azione quest'anno sembra molto sempre più attiva, no? Di questo altro attore del contesto delle istituzioni ciclistiche italiane. Ma non posso che vederlo con grande favore, innanzitutto perché ha portato veramente sostanza al ciclismo con i finanziamenti che è riuscito a ottenere, visto anche il suo ruolo importante in commissione bilancio. Quindi io lo vedo positivamente, comunque dà magari nuova linfa e slancio anche al movimento italiano, e tutte le strade che possono essere percorse bisogna percorrerle. Spesso il ciclismo è stato anche molto messo in secondo piano anche dalla politica, però in effetti è uno sport seguitissimo, cioè non ne ha tanti davanti a parte il calcio, quindi è giusto che venga considerato anche da figure importanti come l'onorevole Penna, che è stato, diciamo, il nostro ambasciatore nei confronti di questo. Ecco, andando verso la conclusione di questa nostra bella chiacchierata, Domenico, prima di lasciarti naturalmente alle dolcissime incombenze della vita familiare, insomma, che ti vede coinvolto in particolare dal 20 dicembre a questa parte, parliamo un pochino proprio del grande ciclismo, dei grandi campioni, del ciclismo internazionale nella massima categoria professionistica. Cosa ti aspetti di vedere proprio da spettatore appassionato e ultracompetente in questo 2025 che inizia a brevissimo? Ma mi aspetto di vedere delle grandi sfide tra i grandi, sia delle gare di un giorno che delle corse a tappe, sperando che si limitino al minor possibile magari le defezioni dovute a infortuni o malattie, perché quello magari ci priva di qualche spettacolo in più. E speriamo anche di vedere crescere i talenti italiani, che comunque hanno dato dei segnali comunque già la scorsa stagione. Stiamo aspettando a livelli ancora più importanti. Infatti sei stato ad esempio una chioccia in Bardiani quest'ultimo anno di Giulio Pellizzari. Come vedi questo suo passaggio in Red Bull Bora? Cosa ti aspetti? Ma mi aspetto da parte sua, comunque, con l'intelligenza che comunque lo contraddistingue, un inserimento graduale in una squadra che ha tantissimi campioni e in cui non dico che debba sgomitare per trovare il suo posto, ma comunque debba imporsi abbastanza presto, far notare il suo valore, che penso che già comunque lo conoscano abbastanza, per ambire a, diciamo, a ricoprire ruoli di rilievo anche in gare importanti. Intanto avrà la possibilità di partecipare a gare a cui non ha partecipato mai, e iniziare a farsi l'osso per quello. E questo discorso potremmo applicarlo in fotocopia, applicato semplicemente a una categoria di età più in basso, anche a Lorenzo Finn, che nello stesso vivaio Red Bull si troverà a correre per il suo primo anno under 23. Sì, poi la sua scelta la approvo appieno. Comunque, avrà comunque la possibilità di correre qualche gara con i pro, ancora di, diciamo, di modulare la sua crescita all'interno comunque della squadra che sarà poi il suo futuro team, già non so se l'anno prossimo o 3 o 2 anni. Per quello che hai potuto e puoi osservare, come vedi il rientro a regime di Wout van Aert e Remco Evenepoel? Ma quello di Volt mi sembra già quasi completato, visto comunque le prove che ha offerto nel ciclocross, nelle sue parole di fiducia dal punto di vista delle conseguenze del suo ultimo infortunio. Remco ci ha già abituati a recuperi molto efficaci anche da infortuni più gravi, ovviamente magari proiettandomi nella sua testa ha già tutti i suoi tempi di recupero, avendo vissuto incidenti anche più gravi di questo, quindi sembra strano dirlo, ma diciamo quando hai nel passato avuto incidenti importanti, se te ne succedono gli altri sai già come impostare il recupero, penso che per lui non sarà un problema. Ovviamente scalpiterà a guardare le prime gare, diciamo, dei suoi avversari, ma dopo penso che rientrerà come al solito molto competitivo. Se ti chiedessi un pronostico, Pogačar, Vingegaard al Tour, naturalmente a condizione che siano a parità di condizione, fattore che non si è verificato nelle ultime 2 stagioni. Ma io vedo comunque la bilancia propendere dalla parte di Tadej Pogačar, anche perché veramente la squadra che lo supporta è cresciuta tanto e per me ha un livello, anche la squadra, leggermente superiore a quella della Visma. Roglic e Pogačar si sono dati il cambio nell'apporre la bandierina slovena nell'albo d'oro della Corsa Rosa nelle ultime 2 stagioni. Quest'anno, come 2 anni fa, non ci sarà Tadej, ma ci sarà Primoz. Quali sono le tue impressioni su quello che ad oggi si sa, naturalmente, di quello che sarà il giro? Ancora il percorso completo, tra l'altro, non è neanche ufficializzato, però insomma sappiamo che Roglic sarà appunto tra i protagonisti, certo con 2 anni in saccoccia in più. Per adesso, appunto, ripeto, per quello che si sa adesso, cosa prevedi, cosa ti aspetti a questo giro? Ma Roglic al giro comunque merita assolutamente tutte le stellette del favorito, quindi nonostante i 2 anni in più penso che venga al giro per portarsi a casa un'altra grande corsa a tappe. Dopo non so se è stata una scelta davvero voluta da lui o dalla squadra, perché lui magari ambiva più a raggiungere il record di vittoria alla Vuelta, però lo vedo assolutamente come il favorito numero 1 di questo giro. Poi vedremo, magari c'è una sorpresa su chi parteciperà e anche sul percorso che non abbiamo ancora sotto mano. Ultimissima davvero, facile parlare dei grandi nomi, tra virgolette, ma se hai un corridore, che sia italiano o internazionale, insomma, ma c'è un corridore che magari vorresti segnalare come un tuo pupillo, comunque uno che pensi che possa fare l'exploit o insomma, emergere nel 2025, che possa essere un po' una sorpresa? A livello internazionale, uno che però ha già fatto vedere tanto, però magari con discontinuità anche per infortuni vari, si è fatto secondo me notare tanto Van Aertvelt, lo vedo come un prospetto che potrebbe ancora crescere e arrivare veramente a un livello molto alto. Allora, vedremo se sarà anche l'anno di Lennart Van Eltvelt. Intanto ti auguriamo che sia l'anno comunque di Domenico Pozzovivo, in qualunque avventura sarai coinvolto nel prossimo futuro. Grazie ancora per essere stato con noi, per aver inaugurato il 2025 di BlaBlaBike e alla prossima. Grazie, alla prossima. Grazie a voi per averci seguiti, ora non perdetevi il punto di questa prima settimana del 2025 a cura di Paolo Broggi e poi appuntamento al prossimo lunedì. FSA, la gamma completa di super accessori per la tua bicicletta. In attesa dell'avvio della stagione su strada, con tanti corridori che sono già volati in Australia dove affronteranno le gare d'esordio, è il ciclocross a meritarsi il proscenio. Settimane in infermeria per Mathieu Van Der Poel. Caduto sbattendo il torace contro un paletto di delimitazione del percorso all'Hainaut, il campione del mondo è stato costretto a fermarsi a causa del dolore che non gli permette di forzare. Così Laurens Zwick è andato a segno nel Duinen Cross. a Coxide. Poi a Capodanno Eli Iserbyt ha ritrovato la vittoria nel Grand Prix Van Nys, mentre poi è salito in cattedra Wout Van Aert. Il belga della Visma Lisa Bike ha vinto la prova di Super Prestige di Gulleghem battendo allo sprint proprio Iserbyt con Van Torenhout terzo, e ha dominato la prova di Coppa del Mondo nel fango di Dendermonde davanti a Westering e Visevre. Ora Van Aert volerà in Spagna per 2 settimane di lavoro su strada con la sua squadra e tornerà al cross nella tappa di Coppa di Benidorm. In campo femminile si continua a parlare solo olandese. Puk Pieterse ha vinto a Coxide, poi è salita in cattedra Lucinda Brand, che ha firmato il successo sia nel Super Prestige a Gulleghem che in Coppa del Mondo a Dendermonde. L'Italia continua a tifare per i suoi giovani talenti. Mattia Agostinacchio ha trionfato, primo azzurro nella storia, sulla spiaggia di Coxide e si è piazzato secondo a Gulleghem, dietro a Muris, mentre Mattia Proietti Gagliardoni è giunto nono a Gulleghem e secondo 24 ore più tardi a Dendermonde, preceduto solo dal tedesco Benz. Gli organizzatori della Parigi-Nizza hanno attribuito le prime 3 wild card per l'edizione 2025, invitando la francese Total Energie, la norvegese 1X Mobility e la svizzera Tudor Pro Cycling, riservandosi di ufficializzare il quarto invito nelle prossime settimane. Binyam Girmay è stato eletto per la quarta volta negli ultimi 5 anni miglior corridore africano, mentre Vincenzo Nibali si prepara a esordire nei panni di sponsor. Con il suo marchio Vincit, infatti, sosterrà la Mastro Marco, squadra nella quale ha corso da dilettante, che a partire da questa stagione opererà nella categoria Juniores. Ci avviciniamo alle elezioni federali del 19 gennaio a Fiumicino e registriamo l'uscita di scena di Lino Secchi, che ha ritirato la sua candidatura alla presidenza. Restano in corsa quindi Cordiano Dagnoni, Daniele Isetti e Silvio Martinello. Lunedì scorso, poche ore dopo aver pubblicato la puntata di Bla Bla Bike, siamo stati raggiunti dalla triste notizia della scomparsa di Gianni Savio. Il manager torinese, 76 anni, è stato vinto da una lunga malattia e la sua morte ha suscitato emozione e cordoglio in un mondo che lo ha visto protagonista per oltre 40 anni. Ci ha lasciato anche Pietro Morato, 90 anni, ex ciclista dilettante e grande amico di Fausto Coppi. Morato si è sentito male proprio a Castellania, dove era giunto per le tradizionali celebrazioni del 2 gennaio in ricordo del campionissimo. FSA, la gamma completa di super accessori per la tua bicicletta. Avete ascoltato Bla Bla Bike.